Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesforo. Eccoci, siamo in postazione, siamo pronti, operativi dal Groovemaster Studio per dare il via al soundcheck di Radio 24, la prova del suono. Buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera al nostro ingegnere del suono ormai indispensabile qui dal Groovemaster Studio, da quando abbiamo attivato anche il live. Lo abbiamo fatto la settimana scorsa per la prima volta utilizzando proprio la mia band, e oggi avremo altri musicisti che verranno a toccare i nostri strumenti, pianoforte, batteria, insomma tutto quello che abbiamo a disposizione qui nel Groovemaster Studio, tutti strumenti che sono stati settati nel migliore dei modi, pronti per essere utilizzati anche in radio, che poi d'altra parte, mio caro Riccardo, sono gli strumenti che noi utilizziamo quando facciamo le nostre riprese discografiche, le nostre produzioni discografiche. Sì, sto parlando con l'ingegnere del suono Riccardo Bomarzi. C'è anche questa diatriba, no? Una volta eravate dei fonici, vi siete trasformati in ingegneri del suono adesso. Immeritatamente a volte, però sì, esatto. È vero, però è più carino, l'ingegnere più carino, del suono, sì. Riccardo Bomarzi. Che tra l'altro è una professione, anche se non riconosciuta, ma da varie lauree accademiche, però è una professione vera e propria. Bene, il nostro ingegnere del suono Riccardo Bomarzi per tutta la settimana ha frequentato lo studio in solitudine, cioè io stavo qui a lavorare per le cose mie e vedevo che lui girovagava nello studio cercando di capire come migliorare il suono, perché tu poi hai sentito la puntata, l'hai registrata come fai sempre, l'hai sentita in onda la puntata della settimana scorsa. Com'era il suono del live? Era migliorabile, diciamo, dai. Cioè, non sei soddisfatto? Non sono soddisfatto, è chiaro che poi l'insoddisfazione, c'è un po' di insoddisfazione c'è sempre, quindi lavoriamo sempre per migliorare. È bello perché noi abbiamo i piedi per terra e ci facciamo per primi le critiche. Allora, in che cosa? Io ho sentito delle cose, secondo me dobbiamo migliorare il suono del basso, il basso, perché poi in radio, no, c'è un compressore nell'emissione della musica e del suono, le frequenze basse un po' si perdono, quindi la definizione del contrabbasso non era un granché, infatti abbiamo cambiato delle metodologia. Cose, metodologia. E quindi che cosa hai fatto? No, è bello perché questo è un programma di musica, è tecnico il programma, io lo voglio sapere, io a me interessa Bomarzi. Abbiamo fatto una doppia ripresa al contrabbasso, sia col microfono. Abbiamo fatto una doppia ripresa al contrabbasso, chissà che pensano gli amici, che hai fatto? Una doppia ripresa col microfono e con la DI. E con la DI, che cos'è la DI? Bomarzi, qua bisogna dire tutto. Troppo tecnici siamo. Che cos'è la DI? La DI è un pick-up praticamente. È un pick-up che viene applicato al contrabbasso e quindi doppia ripresa perché c'è una ripresa microfonica e con il pick-up. Vabbè, sono cose nostre, cose tecniche, cose però tipiche del soundcheck di Radio 24, quindi il suono è migliorabile e lo faremo. Invece a volte ritornano, c'è un ritorno proprio al passato, mio caro Riccardo Bomarzi. Marzi, tu avrai già incontrato questo signore diverse volte frequentando il Groovemaster Studio, ma vado a introdurre agli appassionati di musica, ai sostenitori del nostro soundcheck, il ritorno, non so se gradito, del dottor Francesco Tromba. Buonasera Francesco. Buonasera Gigi, buonasera a tutti. Buonasera, sono contento di rivederti. Tu hai fatto praticamente una vacanza estiva che quasi non è terminata. Beh sì, è stata abbastanza lunga. Lunga. Quasi tutto agosto. È forzata però questa vacanza? No, perché forzata? No, non lo so, sei nel stato senso, contento? Sì, io un po' in vacanza mi annoio. Dopo un po' sì, però alla fine sono stato quasi mai fermo, quindi mi sono mosso parecchio. Voglio essere sincero con te, mi ero ritagliato qualche giorno nel periodo di Ferragosto, non mi sono potuto muovere da casa, sai perché? Per quale motivo? Per gli animali. Ah, perché non sapevo a chi sistemare Bianca e Gattuso. Beh, non sapevo a chi dare il gatto e il cane. Se me l'avessi detto prima, io ho diversi contatti avendo anch'io un cane, quindi. Ma giù, ma tu sei andato giù a Reggio Calabria, che facevo? Qui a Roma. Ho capito, solo per il trasferimento degli animali, sai quanto mi costava? No, ma alla fine sono rimasto anche vicino al Groovemaster Studio, no, qualcosa ma si trova. Sono stato bene, mi sono dedicato alla raccolta dei fichi e ho fatto delle marmellate eccezionali. Ma questo è un programma di musica, Tromba. Vedi, sì, io infatti. Poi con te parlo di di tutto tranne che di cose importanti. Allora direi di andare subito alla musica e proprio tu mi hai segnalato, mi hai fatto ascoltare questo EP di India Arie, giusto? Sì, esatto. Il brano si intitola Breathe, qui al Soundcheck di Radio 24. La voce di India Arie al Soundcheck di Radio 24, questa è una proposta di Francesco Tromba, che è stato in vacanza quest'estate, lunghissima vacanza, hai fatto, invidio moltissimo questa tua permanenza al mare, sei ancora abbronzatissimo, però hai continuato a... Sì, ho seguito diversi a spulciare, concerti a ricercare, anche. Beh, ne hai visti parecchi. Sì, sì, mi sono praticamente trasferito tra la Casa del Jazz, Villada e Vite Culture Festival. Comunque sempre qui in zona Roma, sì. Prima di andare al mare a Reggio Calabria. Esatto. Ogni tanto io chiamavo gli amici promoter, gli uffici stampa per segnalare la mia presenza a qualche concerto e mi dicevano ma fai l'intervista per il soundcheck? Ho detto no, perché soundcheck la produzione è chiusa adesso, vanno le repliche pause durante l'estate. Ma Francesco Tromba ha detto che lui fa le ha detto che c'entra Francesco Tromba? Tu ti sei presentato praticamente a mio nome a tutti i concerti. No, io non ho mai fatto. Non hai mai fatto? Non mio... ho mai detto di fare interviste, semplicemente no. Sono andato a sentire peggio questa cosa. Peggio, insomma, è carina. Oramai tu chiami i promoter e gli uffici staff. Sono Francesco Tromba, prego, venga, così stiamo a questo livello qui. Quasi, no, non proprio. Quasi come Carlo Massarini, no? Un'istituzione della musica. Tra l'altro ho visto un paio di concerti. Massarini? Sì, sì. Cioè, me l'hai salutato? Sì. Vabbè, figurati. Va bene, allora io direi di ascoltare un'altra cosa in linea con India Arie, in attesa del maestro Domenico Sanna che dovrebbe arrivare con Luca Fattorini al contrabbasso. Conosci Luca Fattorini? Sì, sì, l'ho visto diverse volte. Mi dispiace, mi sa che si sta per trasferire a Parigi, questo ho sentito. E poi c'è una sorpresa, perché Domenico viene qui anche... secondo me è divertente questa cosa perché porta un batterista giovanissimo di 16 anni che si chiama, te lo dico, Cesare c'è un nome buffissimo, aspetta te lo dico, si chiama Cesare Mangiocavallo. Ah. Beh, non è proprio un nome da musicista, un po' strano in effetti. È un po' strano, vabbè, poi quando arriverà li conosceremo. Allora, chi c'è adesso? Le Dizzy, quanto mi piace, fortissimo. Tra l'altro l'album uscirà la prossima settimana, quindi siamo tutti in attesa di avere tutto il disco. Allora, Le Dizzy, Add to Me, al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica, di Gegè Telesco. Eh sì, mi piace tantissimo, l'abbiamo presentata la settimana scorsa, però questa è la versione reprise di Holy con Jamila Woods, una ragazza casa e chiesa, arriva da Chicago e fa parte della scuderia di Chance the Rapper. E finalmente è arrivato, è un classico del mio amico Domenico Sanna, ormai pianista di fama nazionale ma anche internazionale per i suoi trascorsi, quasi un classico del tuo repertorio, perché quando ti viene dato un appuntamento, se non c'è un concerto importante, tu ti presenti sempre con quella latenza tipica del tuo repertorio. Complimenti, sì. Perché saresti dovuto arrivare un'ora fa per fare il soundcheck e invece adesso siamo costretti ad aspettare poi l'interruzione delle news di Radio 24. Hai capito come funziona? Funziona che mi dispiace moltissimo, ma ho avuto dei problemi. Che problemi hai avuto? Al solito, a Roma, lo sai com'è, un casino. A Roma, per fare. Per dire, e poi qua fuori il parcheggio manca in campagna campagna intera per parcheggiare che sei venuto con l'elicottero. La prima cosa che mi è venuta, cioè, la mia scusa. Certo, le scuse sono importanti, il musicista di jazz deve sempre avere una scusa pronta, vero? Deve sempre cercare di sorprendere. Comunque a questo punto io ti volevo tenere ospite di tutta la puntata, però siccome sei arrivato in ritardo, intanto saluto Luca Fattorini. Ciao Luca. Ciao. E questo è il famoso Mangiocavallo? Cesare? Certo, cioè, fammi sentire la tua voce, Cesare. Salve. Salve, ecco qua. Quanti anni ha Cesare Mangiocavallo? Non ho capito, troppo pochi per ricordarsi. Tipo, quanti anni hai, Cesare? Quanti? 17 anni. Vorrei ammazzarlo adesso. Che fa? Suona la batteria? È un casino. Vabbè, il soundcheck lo facciamo dopo. Scusateci, amici, ma sono arrivati in ritardo. Jamila Woods. Quindi, dicevamo, Tromba fa parte della scuderia di Chance the Rapper. Abbiamo qualche notizia in più di Jamila Woods? Sì, ha fatto questo, diciamo, sorta di remix del disco che aveva fatto nel 2016. Ha aggiunto dei brani a questo suo lavoro ed è molto interessante. L'abbiamo scoperta grazie a Chance the Rapper, come dicevamo, con una canzone Sunday Girl che era molto estata, molto carina, l'abbiamo passata, anche suonata, però non credo che queste siano le informazioni che possono suscitare interesse per esempio nei miei amici musicisti di jazz tipo Domenico Sanna, che vorrebbe invece sapere fisicamente quanto è prorompente Jamila Hoods. Beh, interessante, sicuramente, è interessante, sì, molto interessante. Che intendi tu per interessante? Aspetta, ti faccio vedere qualche foto. Sì, dai. La fotografia, no, lasciamo stare, vai. Senti, Tromba, ma allora che concerti hai visto quest'estate di bello? Cioè, qual è stata la cosa più bella che hai visto? Benjamin Clementine, sicuramente, sì? Sì, mi è piaciuto parecchio perché, diciamo, è stato quasi magico in alcuni momenti, è un artista che non mi aspettavo avesse anche questa capacità di coinvolgere il pubblico dal vivo, me l'aspettavo molto più distante dal pubblico, invece ha una capacità quasi sorprendente di coinvolgere tutto il pubblico che era anche in alcuni casi colpevolmente distratto. E questo è un po' il rischio che corrono, visto che sono presenti, i musicisti di jazz, no? Che invece non vogliono proprio avere nessun tipo di empatia con il pubblico, è un guaio questo. Invece secondo me è quello che fa la differenza, nel senso cercare un punto di venirsi incontro sia da parte del pubblico sia comunque il musicista deve cercare di creare i presupposti per avvicinare il pubblico alla sua musica. Fa la differenza. Sì, e lo sanno benissimo gli artisti che fanno pop, R&B, anche quelli del gospel, lì sì, ci infatti, deve essere proprio, no? Si stanno studiando diversi modi per cercare di coinvolgere il pubblico il più possibile, a parte diciamo il concerto vero e proprio, anche dal punto di vista visivo con i video, su internet, sulle campagne, su Facebook, diciamo è molto aperta la questione. Bene, Sanna, dimmi una cosa, sì. Tu invece che cosa fai per avvicinare il tuo pubblico alla tua musica? Questa è una bella domanda. Considerando che la musica che fai tu poi non è così semplice. Sì, piace, infatti io sono, diciamo, abbastanza terrorizzato oggi. C'è chi piace e a chi non piace, Gigi, questo è da metterlo... Questo mi sembra... È ovvio, è un po' ovvio. Mi sembra proprio una banalità terribile. Sì. Lo so, però è come ti posso che dire... Che cosa se fai pensi tu? Pensi di dover piacere a tutti quanti, fai un macello, secondo me non ci troviamo più neanche in quel senso lì. Vabbè. Quindi diciamo io cerco di fare una cosa che piace intanto a me... No, che ma realtà, a parte la musica, mi sa che anche il tromba non sta parlando della musica, ma sta parlando di quel tipo di atteggiamento che serve ad avvicinare il pubblico, cioè quell'empatia, anche il fatto di presentare il brano. Il massimo che riusciamo a fare spesso è cercare di vestirci almeno bene. Che disastro! Allora andiamo con Chance the Rapper, anche questo. Chance the Rapper, il brano è molto carino, si intitola Gimme a Call, brano, insomma si capisce che cosa ha fatto con le voci, sembra quasi una cosa non finita. Sì, infatti è un estratto dell'album di Surf, quelli che non sono stati inseriti nell'album, uno dei pezzi che non è stato inserito. Quindi tu mi hai portato uno scarto. Sì, però è molto bello secondo me. Bravo, bravo. Ma. Soundcheck. Il suono della musica. Ebbene sì, avevo 15 anni quando Ornella Vanoni portò al successo questo brano intitolato Senza Paura, brano scritto da Tocchigno, Vinicius, G. Moraes, la versione italiana, l'edizione italiana curata da un autore come Sergio Bardotti. Era il 1976. Questa invece è la versione contemporanea realizzata da Banda Magda, band che abbiamo presentato la settimana scorsa, prodotta da Michael League, leader degli Snarky Puppy, ma anche artefice di questa nuova etichetta che si chiama Ground Up. E tra l'altro con Francesco proprio quest'estate abbiamo visto insieme un concerto con protagonista Michael League e come si chiama la vocalist? Malika Tirolian. Malika Tirolian, la band formidabile, sì, boccante, mamma forte. Che band, aveva tre percussionisti strepitosi perché suonavano in tre stili diversi ma creavano delle architetture di groove impressionanti, veramente fortissime. È stata senz'altro la cosa che mi è piaciuta di più del concerto, la complicità dei tre percussionisti e poi il genere bello, diverso, una sorta di afrobeat contemporaneo molto interessante. Ma questo è il genere che sta sposando Michael League degli Snarky Puppy, si sta spostando dal jazz, funk, fusion a cose un po' più etniche e poi trovando un organico come Banda Magda accolto nel centro, perché? Perché anche lui ha collaborato sia negli anni passati interessati sia in questo nuovo progetto e comunque è coerente a quello che ha fatto con Bocante, perché comunque all'interno del sound di Banda Magda si spazia appunto da sonorità latine alla canzone francese al folk greco, cioè veramente di tutto dentro il suono di questa band. Questo perché la leader della band, la signorina Magda, come si chiama? Come il cognome? Magda Giannicu. Magda Giannicu, greca di origine, è appassionata di spagnolo, francese, italiano, portoghese e quindi di conseguenza è francese. Tutte le lingue. È una linguista. Sì, canta anche in inglese ovviamente. Certamente. Vivi a New York, vorrei vedere. E quindi questo è il raggio d'azione di Banda Magda. A questo punto io direi di prendere un po'... ci siamo quasi per l'informazione. Bomarzi? Ma che mi hai fatto chiedere il microfono? No, tutto ok, a posto. Ma che è il Sennheiser mio dei concerti? No, ma non si è fatto niente. Vabbè, tanto qua chi rompe... Alla fine io tiro giù, faccio il conto finale alla fine della stagione, no? Pure tu... Fatturi. Sai che ho tirato... anche tu hai rotto delle cose nella passata stagione. Io? Quando mai? Non è poi bello. Ti dico che cosa hai rotto, no, tu, tromba. Rotto sì, ti faccio vedere. C'è il conto. Ci sono i reperti filmati. Allora, Banda Magda, io direi di ascoltare anche questo brano intitolato Muchacha. A me piace tantissimo questa versione. Brano originale scritto da Luis Alberto Spinetta, compositore argentino scomparso anni fa, diciamo il compositore per eccellenza del rock argentino, un grandissimo autore, potrebbe essere da Lucio Dalla a Ivano Fossati argentino. Ah, non lo conosco molto bene. No? No. Beh, mi manca. Io invece l'ho scoperto perché me l'hanno segnalato alcuni amici argentini. Ho ascoltato diverse cose, veramente ha scritto delle cose molto molto belle. Dovremmo ascoltare un po' di più cose che arrivano dal resto del mondo, non solo le solite cose. Allora, Sanna, tu sei pronto? Perché adesso io faccio partire il brano, no? Mm-hmm. Faccio partire Muchacha con Banda Magda, poi ci sarà l'informazione di Radio 24, stanno scalpitando lì nello studio di Milano per l'informazione. Tu avrai, 15 minuti di tempo per fare il soundcheck con Bomarzi? Ce la facciamo, Bomarzi? Sì. Allora, facciamo il soundcheck e poi ci ritroviamo qui dal Groove Master Studio. Intanto Muchacha, Banda Magda, a più tardi. Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di Radio 24, qui dal Groove Master Studio con Giorgio Telesforo, vari ospiti a partire da Francesco Tromba. Dove stai? Alle mie spalle? Sì, sono qui. Ecco, non ti muovere, stai fermo lì. Il nostro ingegnere del suono Riccardo Bomarzi, che durante l'informazione ha messo in ordine un po' le cose nello studio per dare la possibilità a Domenico Sanna al pianoforte, Luca Fattorini al contrabbasso e Cesare Mangio Cavallo alla batteria di fare un sound check più o meno ordinato. Bene, abbiamo fatto benissimo. Siamo sicuri? Come è andato, Bomarzi? È andato bene. Cioè, ce la faremo ad ascoltare qualcosa di positivo, di buono? Sicuramente. Va bene, però prima di ascoltare la musica dal vivo, mi volevo fare una chiacchierata con te, Domenico. Ecco, tu volentieri. Tu sei nato a Gaeta, città di mare. Benissimo, a casa mia. Sì. Quasi. Ma tu hai registrato quanti dischi in questo studio? Diverse. Ti senti a casa, lo so. Però tu, parlando di casa, sei nato a Gaeta, cresciuto a Gaeta. Sì. Poi a un certo punto, studiando il pianoforte, ti sei spostato su Roma, che è la tua seconda città, dove hai casa. Ma a un certo punto della tua vita, 2 anni fa, hai deciso di spostarti a New York. Sì. Giorno abbiamo tutti pianto. No, io mi sono commosso. Fortunatamente un altro grande musicista italiano va a New York, vedrai che resterà lì, prendi casa, ti vengo a trovare. Esatto. Non ho fatto in tempo a tornare a New York e tu eri già tornato in Italia. Per quale motivo sei tornato qui? Beh, sicuramente... Dimmi la verità. La verità è che ci sono diversi motivi. Uno sarebbe un po'... non ce la facciamo, sì, riduttivo. E comunque non lo so, forse la cosa che mi è più mancata, forse una casa come si deve a New York, sì, una casa decente, ecco. E altre cose che mi sono mancate. Dove hai vissuto? Ho vissuto un po' a Brooklyn, un po' ad Harlem. Vabbè, ma tu sei andato lì. All'inizio prendi una stanza con altri amici, no? Non sono proprio riuscito a tornare diciottenne o ventenne. Indietro, bomarsi, la pianti, che stai rompendo tutto. Scusami. Niente, figurati. Per cui, ecco, vabbè, una cosa importante sicuramente è il cibo, mo non per parlare sempre le stesse cose, per fare l'italiano della situazione. Ma come il cibo? Però è veramente così per me. È una cosa... Ma che sta... Scusami, Domenico, New York è la città dove si mangia meglio al mondo, c'è di tutto. C'è di tutto. Poi se tu vuoi mangiare, i bucatini alla matriciana, te li fai tu a casa tua, e no? Non è neanche la stessa cosa. C'è qualcosa nell'aria che non funziona. A New York. Beh, sì, l'aria è pesante a New York. Non c'è l'aria di Gaeta. Esatto. Tutte le volte olive, che olive di Gaeta è impossibile trovarne, insomma, solite cose. Ma quindi tu sei andato lì per fare musica, però l'ambiente musicale com'è? L'ambiente musicale è incredibile, insomma, è una cosa, siamo andati lì appositamente, ecco, proprio per respirare però, un po' di questa musica. C'è un però. Però ecco, poi devi tornare a casa tua e c'hai, diciamo, il tuo suonare diviene con te 2 ore, 3 ore al giorno, poi il resto del giorno che fai? Cerchi di vivere in un certo modo, no? E a un certo punto ho detto no, io non... Quindi tanto non sento... ti piaceva l'ambiente musicale, fare musica, studiare, tanto invece New York proprio come atmosfera, come ambiente, come vita. Sì, è un po', mi ha un po', è un po' stressante. Troppo forse New York per me, te. Per me. Troppo sì, americana per te. Sono diventato, diciamo, anziano, anche se potrebbe... Non... Anziano, dai. Lascia perdere. Beh, però hai conosciuto amici italiani che vivono da anni a New York. Come hanno fatto? Qual è il segreto per vivere a New York? Come devi essere per vivere a New York? Non lo so, devi... Ognuno ha le sue priorità, volendo, di vita, certo, per cui la musica sicuramente è una cosa importante. Se tu come priorità però, hai le olive di Gaeta, sì, e i moscardini fritti. Sì, dormire in un posto dove c'è un silenzio, che ne sono una serie di... No, lì no, il silenzio a New York lo puoi trovare soltanto nei grattacieli agli ultimi piani con gli infissi quelli... Esatto. Comunque no, a parte 2 anni fa sono andato lì, ma sono in realtà 10 anni che... in qualche modo frequento la città, no? E a volte 1 mese, a volte 3 mesi, a volte 4 mesi, a volte non so, 3 settimane. Vabbè, comunque quindi sei rimasto in contatto. No, voglio dire che insomma l'idea me la sono fatta non in questi 6 mesi, ma in realtà in proprio un ciclo che è durato appunto forse 8 o 9 anni, no? Quindi ho pensato forse non è proprio il posto dove posso vivere io personalmente. Quindi comunque sei tornato in Italia, sì, e continui a viaggiare tanto, perché un musicista deve avere sempre la borsa pronta. Allora, prima di andare ad ascoltare qualcosa di tuo live qui dal Groovemaster Studio, tanto per respirare un secondo e sistemarci dietro agli strumenti, voi, no? Direi di ascoltare una versione nuovissima di Brown Sugar, successo che lanciò D'Angelo a livello internazionale, perché da pochissimo è stata pubblicata una versione deluxe di Brown Sugar, ovvero alcuni brani presenti in quell'album storico realizzato non so, quasi una 20 anni fa, però rivisitati, rimissati, utilizzando le tracce originali, quelle proprio di D'Angelo di allora. Allora, questo è Brown Sugar della deluxe edition al Soundcheck di Radio 24. Intanto potete preparare e sistemarvi agli strumenti. Mangiacavallo, com'è la batteria? No, è una bella batteria, a posto. Soundcheck, il suono della musica. Eccoci dal Groovemaster Studio, pronti per dare la possibilità a Domenico Sanna con i suoi amici, i nostri colleghi Luca Fattorini al contrabbasso, giovanissimo Cesare Mangiacavallo alla batteria, me lo ha detto, 17 anni, sono invidioso se penso che non so quanti anni ho più di lui, no, lo so perfettamente, ho 40 anni più di Cesare, ti odio. Purtroppo è così, ma stai già dietro gli strumenti. Domenico, tu sei pronto? A posto, siamo pronti? Allora, applauso, applauso, amici, facciamo un applauso. Domenico Sanna, Trio, live al Soundcheck di Radio 24. Ale! Vieni, Domenico, vieni a sederti, vieni, torna in postazione. troppo buono. Ecco qua, Domenico Sanna al pianoforte dal vivo qui al Soundcheck di Radio 24. Il brano, come si intitola il brano che ha una sigla? Questo si chiama DDLJ. DDLJ, che è una composizione di Jackie Byer. Sì, pianista americano, Jackie Byer. Non uno fra i più accreditati, insomma. Forse no, esatto. Però è interessantissimo. No, per me sì, per me assolutamente. È un musicista che poi si è, insomma, dedicato anche alla didattica, però è in... Devo dire che nell'ambiente dei musicisti, proprio a New York e a Boston, è un pianista super rispettato e considerato anche. Senti, nella tua formazione, sì, quali sono i pianisti che consideri importanti, quelli che hai studiato di più, quelli che continuano ad emozionarti? Allora, metterei Art Tatum, metterei... Herbie Hancock. Sì. Hai letto l'autobiografia? L'autobiografia me l'hanno regalata, e l'ho regalata a questo ragazzo che sta qui dietro. Però no, ancora no. Ah sì, perché poi te la fai raccontare, così fai. I libri spesso, te li fai raccontare. Spesso me la racconta. Bella, tu l'hai letta, no? Sì, certo. E, mi piace molto Barry Harris, che sta a Roma. Oltretutto sta a Roma, farà un concerto dopodomani, non mi ricordo. Vabbè, fra qualche giorno. Qualche giorno, sì. E Ahmad Jamal, e anche i pianisti contemporanei come Gerard Clayton o Aaron Parks o Brad Mehldau o Robert Glasper o... Ecco, a proposito di Robert Glasper, no? Sì. Adesso sei tornato da poco da New York e comunque sei in contatto. Tutta la nuova generazione sta proprio musicalmente a cavallo fra il linguaggio tipico del blues e del jazz, le nuove sonorità, l'hip hop, sì, e l'R&B. Invece da noi perché manca questo tipo di approccio? Cioè, ci sono formidabili musicisti di jazz, invece il versante R&B pop ancora non è così, sì, sviluppato. Beh, sicuramente non so, forse tradizionalmente loro hanno il gospel, che è forse la mamma di tutti, no? È, cioè, il punto di contatto. Sì, arriva proprio forse tutto da lì. Però c'è da dire che qui in Europa c'è molta, come ti posso dire, molta considerazione proprio della storia del jazz. Forse mi posso anche provare a dire, rischiare a dire che ho trovato anche più cultura, tra virgolette, qui su alcune cose del jazz, come storia, dischi, eccetera, rispetto a lì. Rispetto agli americani, rispetto sì, agli che quasi danno per scontato. Sì, no? Esattamente. Come per noi, magari la musica napoletana. Ci siamo, che, sì. Senz'altro i giapponesi sono i più preparati al mondo sulla musica napoletana, senz'altro più di noi. Hai ragione, esattamente così. Invece Luca Fattorini, adesso poi voglio parlare con te fra un po', perché a me mi scappa sempre qualcosa di musica, vi voglio far ascoltare qualcosa. Non so se conoscete Alpha Mist. Conoscete Alpha Mist? È un polistrumentista, ma un pianista tastierista inglese della nuova generazione. Anche lui fa un po', ecco, fa un po' il Robert Glasper inglese, si avvicina, canta anche, però in questo brano ha chiesto la partecipazione di questa Kaya Thomas Dyke, che è una cantante che ha un suono particolare e una venatura soul, ma anche con quei lick tipici della musica indiana, no? Formidabile. Vi faccio ascoltare questo brano che si intitola Brit fra pochissimo. Però Fattorini pure ha deciso di spostarsi a Parigi, no? Non tanto spostarsi quanto di... Proprio di andare a vivere a Parigi, no? No, farò la spola tra le due città e cercando di prendere del nuovo da... E tu lo sai che già come ti chiamano, no? A Parigi? No, qua in Italia. O francese. Vabbè, ascoltiamo Alpha Mist al soundcheck, dai. Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Il sound del batterista Trevor Lawrence Jr. qui al soundcheck di Radio 24 con la partecipazione di un trombettista affermato, un caratteraccio, lasciatemelo dire, quello di Nicholas Payton, ma che suono e che musicista. Anche lui, come i ragazzi della nuova generazione, ha il background tipico della musica gospel e si risente, quindi conoscono la legge, il linguaggio del blues, quello del jazz, ma c'è questa componente che da noi non esiste, non esiste in Europa, anche se ormai negli ultimi anni i ragazzi, quelli della nuova generazione, si stanno avvicinando molto a quel tipo di sonorità, studiando proprio i turnaround tipici del gospel. Insomma, sono sempre delle belle tensioni armoniche anche quelle, e poi groove neanche ne parliamo, perché le ritmiche che vengono e che si formano nella scuola del gospel sono impressionanti. Luca Fattorini, contrabbassista italiano, ormai fa la spola con Parigi, infatti gli amici quando parlano di lui lo chiamano o francese. Insomma, Parigi, perché hai scelto Parigi? Potevi andare a New York pure tu? Intanto, sì, vabbè, diciamo, più vicino ci metti in un'ora di aereo. Sì, sì, probabilmente sì. Diciamo, il limite grosso di New York è, insomma, la possibilità di viverci. Quindi, perché costa tantissimo. Sì, però pure a Parigi non scherza, Parigi non scherza, però diciamo c'è più attenzione nei confronti della musica, musica. Io vorrei raccontare una cosa che mi disse Domenico. Domenico, tu puoi confermare, quando sei tornato da New York, no prendi il microfono, mi devi confermare questa cosa qua, quando confermo, sei tornato da New York allora. No, vorrei che lo raccontassi tu mi hai detto, una sera ho fatto un gig in un club dove c'era una mia amica che lavorava ai tavoli, e alla fine della serata io ho suonato per 3 ore e lei ha lavorato per quattro e con le mance ha guadagnato molto più di te. Non ho molto di più, ma molto di più. Prendevo $70. $70 per suonare 3 ore? Per suonare 2 ore, sì, per dell'ora. Tre set da 45 minuti. Bravo, poi ci metto un'ora per ci arrivare, un'ora per tornarci. Nel casa, club, dico, con la metropolitana. In più c'aveva un pianoforte elettrico appresso, proprio come... Un disgraziato. Per cui finì la serata e Giada mi fa... insomma, io guadagnavo $350, tu? Quindi io da lì ho pensato che... Giustamente, ecco, un lavoro normale può anche permetterti. Questo si sa, quanti ragazzi a New York hanno iniziato la loro attività facendo i camerieri nei locali, poi si sono aperti proprio dei ristoranti che adesso sono di fama, no? Funziona così. Invece per un musicista è dura, è durissima. Dura. C'è da dire che loro lavorano molto anche la quantità delle cose che riescono a fare in un giorno, perché a differenza nostra, ad esempio, sono puntuali. Se loro ti dicono 7-9, tu alle 9-5 sei fuori, sai che alle 10 puoi fare un'altra gig. Okay. Lo so, invece da noi, per esempio, abbiamo un programma in radio, per esempio, che parte alle 19:15 su Radio 24. I musicisti dovevano arrivare un'ora prima per fare il sound check e si presentano mezz'ora dopo l'inizio del programma. Appunto. Succede, no, Sanna? Fa parte, perché c'è traffico, non c'è parcheggio, è una cosa tipicamente italiana. Non volevo dare la colpa. No, non è a chi puoi dare, figurati se vuoi dare la colpa agli altri. Allora, facciamo una cosa, va, sistemiamoci agli strumenti, vi lascio con Domenico Sanna. Questa è una sua rivisitazione di, credo, di Evidence di Thelonious Monk, esatto, no? Che cosa hai fatto? Cioè, già Evidence è un pezzo abbastanza tosto, no? Per chi non frequenta il jazz. Adesso tu mi vuoi far cacciare dalla radio? No, questa è la domanda. Spero di no. Fai una cosa godibile. Sistemiamoci. Applauso. Vai. Domenico Sanna in trio con Luca Fattorini. Grazie. Al contrabbasso, giovanissimo. Poi voglio parlare con Cesare Mangiocavallo, voglio sapere che cosa fa. Allora, il brano si intitola Evidente, live al soundcheck di Radio 24. Vai, Domenico. Non potevo non omaggiare Domenico Sanna con Next, brano tratto da Fun Slow Ride, scritto insieme a Greta Panettieri, al formidabile Alan Hampton, che ha interpretato questa melodia che in qualche modo Domenico Sanna ha visto nascere, perché eravamo in tournée insieme. E quando poi ho presentato l'album alla Rope Dope negli Stati Uniti, hai ricevuto personalmente, Domenico, un sacco di complimenti e mi hanno chiesto ma chi è questo pianista, e pensavano che io facessi un nome americano o comunque di un musicista, di un musicista della nuova generazione residente a New York. Invece ho detto no, questo proprio a New York non ci vuole proprio più venire. E sapete perché? perché è di Gaeta e gli piace quando suona avere il pianoforte pieno di moscardini e di olive di Gaeta. E beh, poi, insomma, le cose stanno un po' così. Io però hai fatto un solo strepitoso veramente, veramente grazie. Va bene, io voglio ringraziare Luca Fattorini per la partecipazione, grazie. Quando torni a Parigi, Luca? Tornerò a fine mese. A fine mese torni a Parigi, invece mi sa che resterà a Roma il giovanissimo Cesare Mangiocavallo, giusto? Sì, sì, resterò a Roma. Ecco, tu resterai a Roma perché tu che classe fai? Faccio il quarto liceo. Quarto liceo. Stai per fare il quarto liceo, stai facendo il quarto liceo e quindi quarto e quinto, almeno due anni ancora li devi fare qui. Non ti puoi allontanare. No. Però tu hai deciso, che scuola stai facendo? Faccio il liceo del cinema. Liceo del cinema, però fai il batterista. Sì. Una priorità qual è? È la musica la priorità. La musica. E però, come ti sei avvicinato al jazz? Casa sono musicisti di jazz? Non di jazz, sono musicisti barocchi. Musicisti barocchi. Mio padre suona anche jazz, però. Ah, tuo padre è un concertista di musica barocca. Che strumento suona? Violino. Allora, tuo padre è il violinista, il Mangiocavallo, il maestro Mangiocavallo. Lo conosce. Lo conosco. Però devo dirti una cosa, Cesare. Cioè, vedi, quando presentano tuo padre, perfetto per la musica barocca, madame, messieurs, ladies and gentlemen, senti come suona. Signore e signori, uno dei più grandi interpreti di musica barocca del mondo, al violino il maestro Mangiocavallo. Non fa una piega. Domenico, no? Ci siete? Ci sei tu, no? Perché io immagino. Invece, ladies and gentlemen, madame, on drums, concerto di jazz, Cesare Mangiocavallo. Non va bene, scusami, dobbiamo trovare un nome d'arte a Cesare Mangiocavallo, diglielo a papà, non ti dispiace, io adesso ci penserò. Tu ne hai trovato uno per te? Ci hai pensato? No. Non ci hai pensato? Vabbè, ci penseremo, ci no? Vabbè, Cesare, anni davanti. Cesare, tu hai capito che per fare il musicista bisogna avere un senso dell'umorismo infinito, sennò qua ci mettiamo a piangere. Me l'hanno detto. Te l'hanno detto, ma mi sa che ancora non sei convinto. Domenico, piano, fagli mangiare un po' di moscardini a sto ragazzo, o di olive di Gaeta, per favore. Va bene, allora noi siamo arrivati agli sgoccioli, siamo costretti a salutare i nostri radioascoltatori, a dare appuntamento a sabato, no, a domani ragazzi, domani alle 19.15, direi Tromba che tu puoi fare un bel disannuncio, un saluto proprio con il tuo stile, io intanto mi vado a posizionare alla batteria se Cesare mi concede l'uso delle sue bacchette. Prego. Me le dai, che bacchette usi? Non lo so. Che sono 7A, 5A? No. Vabbè, non fa niente, basta che mi dai le tue bacchette, va, fa niente. Dammi ste bacchette, Cesare. Domenico, che facciamo? Un groove? Un groove? Fai un groove, quello che vuoi fare tu. Dai, mi vado a casa tua. Fai un bel saluto, Tromba, una bella presentazione al trio. Grazie, okay, grazie dell'invito. Vai. Domenico Sanna al pianoforte, Giuge Telesforo alla batteria e Luca Fattorini al contrabbasso. Applauso, è un po' più allegro, lo potevi fare. Mamma mia.